tempo questa stanza, alle persiane chiuse, non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero. È lei che mi manca, è lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. Tempo di aspettarti.